La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Oggi vorrei parlare delle sorprendenti vicende amorose del poeta romantico Percy Bysshe Shelley, che nacque nel 1792 e morì nel 1822, quindi a 30 anni. I tre grandi poeti del romanticismo inglese, Byron, Shelley e Keats, morirono tutti giovani e dunque sono eternamente giovani. Byron a 36 anni. Era andato per un'impresa eroica a combattere per la libertà della Grecia oppressa dalla Turchia e invece morì di febbri e forse di salassi. John Keats, a 26 anni, era andato in Italia sperando di salvarsi dalla tubercolosi col clima più mite e invece morì. E invece Shelley, appassionato di mare, morì a 30 anni in un naufragio. Byron era il più bello e il più famoso, quello più sinceramente demoniaco, e anche il più fulgido talento del terzetto. Comunque nell'opera è l'unico che stemperi l'enfasi con un delizioso senso dell'umorismo, per esempio nel poema Don Juan. Byron fu grande amico di Shelley, o comunque le loro due vite furono strettamente intrecciate. Ebbero anche la stessa donna per amante, poi vedremo come, Claire, la sorella di Mary Shelley, moglie del poeta. E Shelley ha sempre covato una sotterranea, tormentosa competizione nei riguardi di Byron. E dicevo, morirono giovani e le loro storie sono storie di ragazzi. Quelli che sto per raccontare, gli amori di Shelley, la storia del suo harem, è appunto una storia fra ragazzini, perché quando Shelley muore, Mary, sua moglie, ha 23 anni, la sorella Claire ne ha 21, sono molto giovani. La storia di questo harem e della pazzia delle donne nel sopportare quella situazione di servaggio e di scegliere come gioco di assecondare il sultanismo del poeta e di rimetterci anche la vita, ed erano donne colte come tutte quelle che amò. Quindi penso quanta immaginazione, quanto senso del romanzesco, prima ancora che del romanticismo, avevano le sue donne più di lui, regista di una commedia noiosissima, desolantemente sempre uguale. Shelley è bello nei ritratti, non come Byron, però fa la sua figura. È bello come una donna, avrebbero detto le mie nonne. Avrebbero anche detto, non è che sa di tanto, ecco, non sa di molto. È un po' scipito all'aspetto, ha quest'aria da abatino narciso e un po' igienista che ti dà la mano e poi corre a lavarsi. Dal ritratto non ci assale il fascino di uno che ha rovinato la vita a una quantità di donne. Due si suicidarono per lui. Ma la più seviziata, che era anche la più forte, sopravvisse, Mary Shelley, l'autrice del famosissimo libro Frankenstein o il moderno Prometeo, che poi tutti alla buona diciamo Frankenstein. Vi leggerò dei brani di un testo che si intitola Shelley, la vita e l'opera, e l'autore è Michele Renzulli, e questo libro racconta con un linguaggio nobilmente vetusto la maratona amorosa esasperantemente ripetitiva che fu la breve vita di Percy Bysshe Shelley. Mentre leggerò brani dal libro del professor Renzulli, lontanissima da me l'idea di prendere in giro il suo stile e le sue idee, anzi lo offro come un raffinato e sincero frutto del tempo in cui scrisse 80 anni fa, pieno di un garbo che per la strada si è perduto. Scrive Renzulli parlando di Shelley, del poeta Shelley. Iniziamo dalla fanciullezza del poeta. Inoltriamoci per un momento negli intimi recessi del suo amoroso giardino e insieme con fiori dolci e dolezzanti vi troveremo anche delle tombe immature. Ecco, Renzulli si esprime così garbatamente, in verità vuol dire che si andava formando questo stragista a piede libero che sarà poi Shelley nel rapporto con le donne. Fanciullo di precoce sviluppo sessuale, non trovando altro campo per dare sfogo al suo entusiasmo erotico, ama di non fraterno amore la sorella Elisabetta. Pure qua, come Byron, questa morbosa adolescente passione lascerà tracce incancellabili nel suo animo e gli farà ripetutamente giustificare i rapporti sessuali fra stretti consanguinei e proclamare l'amore carnale tra fratello e sorella quale oggetto di altissima poesia. E infatti lo scrive nella Rivolta dell'Islam, c'è un dettagliatissimo racconto di un congiungimento carnale tra fratello e sorella, e dice Renzulli esposta chiaramente la dottrina scelliana che gli amori carnali fra stretti consanguini fossero non solo leciti, ma costituissero un diritto della libertà individuale. Però a Renzulli, autore del saggio, non gli va giù che lui abbia avuto questi rapporti con la sorella e che se ne vanti pure. E quindi non si lascia abbindolare da tutte le cose che lo Scelli dice e invoca l'infermità mentale. Che lo Scelli fosse facile all'entusiasmo erotico non indicherebbe alcunché di anormale, ma che non sentisse ripugnanza per certi amori mostruosi e ne facesse per di più oggetto di ispirazione poetica dimostra chiaramente che lo Scelli sessualmente doveva essere un individuo anormale e non doveva possedere un cervello del tutto sano, perché certi atti di aberrazione sessuale sono possibili e comuni soltanto in esseri psicopatici. Io questo non lo so, però riferisco fedelmente. A prova dell'infermità, poi dice appunto che lo Scelli aveva delle allucinazioni di giorno e di notte e poi aveva mania di persecuzione, tipica degli egotici più sfrenati, e anche il timore, di certo infondato, di morire di elefantiasi, infatti era snello come un giunco. E poi, a favore dell'infermità mentale, Renzulli racconta quando lui un giorno, tornando dal vicino bagno, si presentò in costume adamitico nel salotto dove erano a discorrere la moglie con le amiche e rimase lì a chiacchierare come nulla fosse, con grande stupore delle donne. Sembra, è già un po' comico, sembra il film di Sordi, C'è l'uomo nudo, non so se ve lo ricordate. E quindi adesso però è peccato che Renzulli non racconti la reazione delle donne, perché evidentemente anche le signore continuavano a prendere il tè con la tazza un po' tremolante, ma facevano finta di nulla. Comunque l'amore per la sorella Elisabetta finisce presto, come sempre le sue storie, e lo Scelli allora si innamora perdutamente della cugina Harriet Grove, la quale pare fosse bella come una Madonna di Raffaello. E lui immediatamente fa la cosa che poi farà sempre, dice che è la fanciulla ideale, che è la donna in quanto tale, che è la compagna della sua vita, l'eterna ispiratrice della sua poesia. Però erano ancora troppo ragazzini per potersi sposare, per cui le due famiglie danno il permesso di fare delle romantiche passeggiate al chiaro di luna nel parco del Duca di Norfolk, ma dice quando sarete più grandi vi sposerete. E lì lui la delizia, invece di darle qualche bacetto, la delizia con queste storie di cui è appassionato lettore, di streghe, di spettri, e soleva con grande enfasi narrargli alla cugina, la quale lo ascoltava con sempre crescente ammirazione. E poi soprattutto lui si impegna moltissimo a convertirla all'ateismo. La guardiana del faro. Stavo leggendo la storia del poeta Scelli basandomi su un testo del professor Michele Renzulli, un testo degli anni 30. È la storia di Scelli, che poi è la storia delle sue lambicatissime e crudelissime architetture amorose. Ora, è già noioso uno che ti vuole convertire all'esistenza di Dio, però almeno ti vuole convertire a una cosa che c'è. Il predicatore ateista è ancora più noioso del fanatico religioso, perché ti vuole convincere di una inesistenza. E secondo il Renzulli, Harriet da principio cercò di seguire il poeta e poi, spaventata dalle teorie apertamente ateistiche e rivoluzionarie del suo focoso adoratore, lo molla. Io non credo che si desse tanto pensiero delle idee sull'inesistenza di Dio con cui il fidanzato l'aggrediva, perché lei capiva benissimo che l'ateismo era solo una delle penne messe lì a ornare la sua enorme coda di pavone. Non si dava tanto pensiero di questo, il fatto è che lei non ne poteva più. Ci sono delle letterine scritte alla sorella in cui lei si annoiava a morte, si era stufata di questo chiacchierone e si era accorta che lui parlava da solo. E aveva già intravisto la desolante ripetizione. La decisione di Harriet di non rivedere più il poeta fu per questi un colpo inaspettato e tremendo. Fece di tutto per smuoverla dal duro proposito, e a chi si rivolge, cosa che farà poi per sempre? Si rivolge alla sorella. Si rivolge alla sorella Elizabeth affinché convinca la ragazza a tornare con lui. e con questo anticipa una mossa che poi farà sempre. Si rivolge a Elizabeth non come una sorella, ma come alla sua ex favorita, perché in tutto il tempo che verrà poi, appena decadono queste donne, lui le degrada subito al ruolo di mediatrici con la nuova fiamma, ovvero sia gli fa fare le acchiappa femmine, le ruffiane, le mezzane. La sorella si fa in quattro. Perché si fa in quattro? È l'interessamento innamorato di una che è ancora dentro l'incesto, che lo ama ancora? Oppure c'è il sospetto che lei voglia liberarsi di questo fratello, perché era un bel flagello? Ma Harriet non abbocca, la fa parlare, ma le idee troppo chiare. E la sua risposta è esemplare. Si rifiuta perché dice, primo, non sarei felice con lui. E secondo, si rifiuta a questa farsa di rappresentare l'ideale. Ben sapendo, la frase che ripetiamo ogni tanto, quando ti mettono su un altare, è sempre per sacrificarti. Quindi dice, ma lui esagera, mi vede come una dea. Appena si accorgerà che non è vero, di quanto sia inferiore all'idea che si è fatta, sarà un disastro. E se ne va. E poi non solo se ne va, ma mica va in convento, come avrebbe auspicato lo Shelley. No, si sposa un bel giovanotto del posto e se la spassano allegramente, fanno un matrimonio meraviglioso, sull'aia, ballano fino all'alba e lei si diverte. Lui scrive una lettera terribile ad un amico. Essa, cioè la Harriet, è finita. Essa è perduta per sempre. Si è sposata. Si è sposata ad un tanghero della terra. Diverrà anche lei un essere insensibile. Tutte le sue qualità si atrofizzeranno. E poi, con frivolezza, non ne parliamo più. E infatti non ne parla più. E siccome crede che la decisione di Harriet sia dovuta al fatto che si è spaventata dell'ateismo, giura di muovere eterna guerra al cristianesimo per vendicarsene. E lui si ricorderà per sempre di questa Harriet numero uno. La chiameremo Harriet numero uno perché poi ci sarà una Harriet numero due. Harriet numero uno si era conquistata comunque un posto preminente nella vita del poeta, perché è l'unica che gli ha detto di no. È l'unica che ha capito il giochetto di lui fin dall'inizio e si è annoiata subito e ha rifiutato. Cioè è l'unica che ha tagliato la corda in tempo. Ma ecco, sta per arrivare Harriet numero due, ovvero Harriet Westbrook. E a lei andrà molto peggio. Scrive Michele Renzulli. L'accasciamento dello Shelley non durò a lungo. L'infallibile rimedio era sempre un nuovo amore. E si innamora di questa Harriet numero 2 che ha 16 anni. È molto bella, come le altre, è anche molto colta e scrive Renzulli di svegliatissima intelligenza. La corte fu breve e travolgente, stavolta è molto prudente, non si dà a conoscere. La incontra l'Amalia e poi di corsa fuggono a Edimburgo nel 1811 e si sposano. Anche se sono molto ragazzini, lei ha 16 anni e lui 19. I primi tempi i rapporti sono bellissimi, sono molto felici. La ragazza non solo ama il marito, ma fa sue tutte le idee radicali filosofiche dello Shelley. E nel frattempo gli sposi, mentre sono ancora in luna di miele, sono raggiunti dall'amico Thomas Jefferson Hogg, il quale viene ospitato in casa e scrive un ritratto di Harriet numero 2. Essa è raggiante di giovinezza, salute e bellezza. Mai ho visto una fanciulla che abbia letto tanto quanto Harriet. Essa poi è sempre graziosa, gioviale, fiorente, elegante, semplice nella sua nitidezza, senza una macchia, senza una piega, non un capello fuori posto. Ed Harriet, dice Renzulli, non solo fu moglie affettuosa, ma fedele. Infatti, questo ritratto che prelude a un forsennato corteggiamento, Hogg, alla prima assenza del poeta Shelley, cerca di sedurgli la moglie. Ma questa seppe difendersi bravamente e vittoriosamente dall'ignobile assalto e, ritornando il marito, gli svelò senza indugio il vile attentato di Hogg e, naturalmente, Shelley lo caccia subito di casa. E lui, che fa il seduttore di mestiere, scrive a tutti delle lettere indignatissime, ha abusato della mia ospitalità e dice sono pieno di orrore e di raccapriccio. Intanto nasce la prima bambina di figlia di Harriet numero 2 e di Shelley. Nasce la bambina Iante e portò un nuovo raggio di luce nella felice casa degli Shelley. Il poeta era così affezionato che in un tempo in cui i padri si occupavano pochissimo dei figli, prendeva gran diletto nel cullare la bambina e nel farla addormentare cantando una canzone di sua invenzione, che riusciva a ninnare la neonata, ma esasperava gli altri ascoltatori. Un record. Shelley, antipatico perfino in questo. Doveva essere nato per far imbestialire gli altri esseri umani. Intanto però dedicava versi d'amore alla moglie, Harriet numero 2. Lascia che la morte sciolga tutti i nodi mortali, ma il nostro non sarà mortale. La fredda mano del tempo potrà ghiacciare l'amore di menti terrene, ma non il nostro, che continuerà caldo, tranquillo e salutare per lo spirito. Attenta, Harriet, in questa fiacca retorica c'è già un indizio della fine. Intanto la parola tranquillità. E difatti, appena scritto questi bei versi e appena si è indignato con l'amico Hogg che ha cercato in casa sua di sedurgli la moglie, fa la stessa cosa a casa Turner. Conosce questa Cornelia de Boinville, maritata Turner, e comincia a fare il mieloso. In poco tempo la seduce, tanto che il marito Turner, esasperato per liberarsi di questo flagello, lascia la casa di Bracknell e se ne va a stare nel Devonshire, dove avevano una tenuta, per non farli vedere più. Anche Harriet lo viene a sapere. Ma trattandosi di una moglie di altri, il poeta non fu preso da raccapriccio per avere sedotto Cornelia Turner e abusato dell'amichevole ospitalità. E scrive Renzulli, con tutte le sue teorie del libero amore, egli rimaneva in fondo, un puro egoista. Il male che l'amico Hogg aveva tentato di consumare i suoi danni, ora egli lo perpetrava senza l'ombra di rimorso nei riguardi di Mr. Turner. Il pensiero di dover presto abbandonare la casa ospitale, che riguardava come sua, e separarsi dalla giovine amica che aveva ravvivato nel suo cuore la morente fiamma della vita, lo rattrista profondamente. Ora, la fiorente fiamma della vita, il freddo focolare di cui parla sempre, è casa sua, con sta bambina di 17 anni, che lo aspetta, che è innamorata pazza. E questa era la morente fiamma della vita. Colmo della sfacciataggine, comicità involontaria, nella quale incorre spessissimo il nostro Shelley, con chi si va a lagnare che l'hanno cacciato di casa perché ha sedotto la moglie? Con Hogg, con quello che aveva lui cacciato di casa perché aveva provato a chiappargli Harriet. E si vanta con l'amico che non è riuscito a giacersi con sua moglie, si vanta che lui è riuscito con la moglie del signor Turner. Si vanta il sublime poeta romantico, come Bocchino si vantò in TV della Carfagna, come qualsiasi bulletto parcheggiato su una motocicletta fiammante si vanta con un suo pari. E scrive a Log: da principio io credevo che Cornelia fosse riservata e fredda, ma invece essa è tutta l'opposto. E torna al tema: ogni cosa mi dice qua, fuori, via, alla tua triste e silenziosa casa, con questa moglie bambina che lo aspetta. E quindi si dispera per la perdita di Cornelia Turner, che gli è stata sottratta dal marito, ma non doveva durare a lungo, perché sta per fare l'incontro della sua vita. Lui è seguace delle teorie del filosofo Godwin, che è il suo maestro, e va a casa sua per approfondire le dottrine del maestro, e lì gli si apre un mondo. Lui ha tre figlie, tutte belle, tutte ragazzine, e quindi si trova davanti a un vivaio di donne da distruggere e da tormentare. Tutte e tre le ragazze, Mary, Fanny e Claire, si innamorano di lui. Erano ragazzine romantiche, cioè erano proprio nel pieno del romanticismo, avevano letto tutto. Insomma, si innamora pazzamente di Mary e scrive subito alla moglie dicendo: senti, io non ti amo più. Il suo cuore era tutto per Mary e le fece una geniale proposta, tipica della mentalità shelleyana. D'ora in avanti vivrebbero tutti e tre insieme, Mary come moglie e lei, Harriet, come sorella dell'anima. Ma la moglie, che aveva già avuto un'esperienza di menage a tre con un'altra Elizabeth, un'altra sorella dell'anima dello Shelley, rigettò sdegnosamente il folle progetto e supplicò Mary di non involargli il marito e il padre dei suoi figli, perché aveva appena saputo che ne aspettava un altro. Mary glielo promette. Il giorno dopo, lei e Shelley fuggono in Francia. Ma un momento, non fuggono da soli. Fuggono con la sorella Claire, che anche lei è innamorata del poeta. Quindi immaginatevi la sincerità e la sanità di una fuga d'amore già in tre. Cioè Mary, che è innamorata pazza di Shelley, si porta dietro la sorella che è ancora più innamorata di lei. E Renzulli scrive: lo Shelley era poligamo per natura e teoricamente era un convinto seguace del libero amore, insofferente perciò di qualsiasi vincolo. Insomma, lo Shelley era un poligamo di natura e le metteva incinte tutte. Lui aveva bisogno dell'amore per distruggere e per scrivere. Dopodiché non vedeva più l'oggetto del suo amore e passava ad altro. Il saggista Renzulli cerca di giustificarlo, dice che lui era totalmente incapace di rimorso. Cioè, ma questo derivava da un'incoscienza del male che la passione amorosa gli faceva commettere concomitantemente, bellissimo aggettivo degno di Michele Mari. E quindi non ha nessun rimorso. Ora fanno questa fuga, che è già un inferno, perché lui si è già un po' stufatino di Mary, visto che Mary comunque è stata sedotta. Mentre si trovano in Francia, dopo, in questa fuga d'amore, lui parla tutta la notte con Claire, cioè fanno un flirt inesausto con Claire la notte, mentre mandano a dormire Mary in soffitta, e Mary, tutta la vita scriverà, finché sarà vivo Shelley, scriverà questo diario che è il catalogo di tutte le sue infernali gelosie, perché di notte parla con la cognata senza sfiorarle, quindi immaginiamoci con quali abissi di passione. E continua però a scrivere alla moglie dicendo: unisciti a noi, ma non a lui e all'amante, ormai erano due. Oh, però la fuga dura poco, hanno finito i soldi e lui ha alla polizia le calcagna, rischia di essere denunciato e incarcerato, e allora corre in Inghilterra a prendere un po' di soldi. E a chi li chiedono? A Harriet numero 2, abbandonata con la bambina piccola, incinta di nuovo, e lei si spoglia di tutti i suoi beni. Le donne sono matte, per questo che il mondo forse non finirà mai, perché le donne sono troppo matte. La guardiana del faro. Continuo a leggere la storia del poeta Shelley basata sul testo del professor Michele Renzulli, un testo degli anni 30. Shelley, il poeta romantico inglese, grande organizzatore di harem domestici e torturatore di donne. Intanto Mary la mette subito incinta e ha un aborto, poi la rimette incinta e perde la bambina, quindi è anche una storia molto drammatica. È già gelosissima perché invece sta per nascere l'altro figlio di Harriet numero 2. Poi appena Harriet gli ha dato i soldi, loro tornano in Francia e lì ricomincia tutto. Mary in soffitta, sempre incinta, e Shelley con la sorella Claire che fanno gli scivolosi, come diceva Anna Magnani, al piano di sotto. Oh, lei sopportava, sublimava scrivendolo sul diario Mary Shelley. Però ogni tanto facevano delle scenate, lei e la sorella, che poi correvano i poliziotti, correvano i flick a separarle. E notare bene, appunto, lei non è una cretina, non è una sprovveduta, è una che come scrittrice, secondo me, è 100 volte superiore allo Shelley. Eppure sopportava questo. E scrive nel diario: io vado a letto presto, ma Shelley e Clara restano a discorrere accanto al fuoco fino all'alba. Finché si stufa veramente, c'è un momento in cui dice basta e riesce a cacciare di casa la sorella. Che però Shelley l'accompagna nella nuova casa, e poi non solo, ma si vedono continuamente di nascosto, e Mary scrive nel journal. Claire è seccatissima di essere mandata in esilio, che il suo fascino non abbia superato quello della sorella, e non capisce che Shelley non ne regge una per volta, che ha bisogno di lei, che ha bisogno di Mary, che ha bisogno di tante altre, perché se non ne ha tante altre il suo vuoto affettivo lo uccide, lo spolpa. Allora però Claire fa una bellissima pensata, dato che sa della enorme gelosia non ingiustificata, anche poetica, che lo Shelley ha di Byron, di pensa: adesso ti aggiusto io, e fai dispetto a Shelley andando con uno più bravo, più scandaloso e più famoso, cioè con Lord Byron, con la bestia nera di Shelley, e gli fa degli agguati veramente senza vergogna, prova di tutto per conquistare Byron. E Byron, che non riusciva neanche a immaginare che le donne avessero un'anima, sfogava, come scrive Renzulli, la sua lussuria bestiale, dopodiché le buttava via. E nonostante fosse molto disponibile, questa Claire gli è antipatica subito, già per lettera. Prima scrive e poi dice: ma io voglio fare l'attrice, e lui dice: rivolgetevi al direttore del teatro, ma vediamoci oggi pomeriggio in un luogo appartato, e lui fa dire da un servo che non può. Dopo la quarta volta dice: ma poi, sapendo che era parente in qualche modo di Shelley, perché se Shelley era geloso di Byron, anche Byron ci teneva a mantenere la sua supremazia, e quindi accetta di passare una notte o due con lei, non ne rimane entusiasta e subito dopo la molla. Però questo breve incontro è bastato per lasciarla incinta, e quindi lei, tutta contenta, si rifà viva e torna all'inferno portatile di Shelley e di Mary, e si ripresenta molto forte rispetto alla sorella, perché ormai le è passato sopra questa benedizione che è Byron, quindi ha riso l'altro geloso ed eccitatissimo per tutta la vita, perché è una donna posseduta da Byron, quindi figuriamoci. E nasce questa bambina, nasce la bambina allegra, bellissima. Lei ci riprova con Byron, perché erano vicini di casa, facendo le escursioni insieme, e lei riesce a strappare qualche altra notte a Byron, che a un certo punto però le chiude la porta in faccia e dice: senti, io te non ti sopporto. La bambina la prendo a patto che tu non ti faccia vedere mai più. E ricordati che se io so che tu sei in una città, io me ne parto immediatamente. Quindi proprio la diffida, però non la sopporta. E mentre c'è questa situazione, Dall'Inghilterra chi arriva? La terza sorella, Fanny, la più giovane, anche lei innamorata pazza del poeta, che tenta anche lei il colpo, vedendo che il poeta un po' la ignora perché c'ha tanto da fare, perché poi Mary sopporta tutto, fa la serva degli amori del marito, ma ne sa la metà. E Fanny, per interessare Shelley, al solito cerca di buttarsi tra le braccia di Byron. Byron non ne può più. Ma insomma, lui non vuole essere la pattumiera di tutte le loro nevrosi e il jolly che si scambiano per indispettire Shelley. E quindi la rifiuta. E la povera Fanny di nuovo torna a casa. E in più il papà, un uomo di un cinismo pazzesco, che le dice: senti cara, ormai sei troppo grande, io non ho difficoltà economiche, cercati un lavoro perché non ti mantengo più. E la povera Fanny non trova neanche lavoro intorno, perché la storia delle sorelle ha fatto scandalo, cioè di Shelley che se ne va con queste due mogli. Per cui non riesce neanche a trovare lavoro. Una notte prende una stanza in una locanda, la mattina non risponde ai richiami, sfondano la porta, lei ha preso il laudano, è morta. È morta lasciando una lettera dove dice a Percy: forse nell'apprendere la mia morte tu sentirai un certo rimpianto, ma prestissimo avrai la felicità di dimenticare che al mondo sia mai esistita una creatura che chiamavasi Fanny. Il poeta, disperato, perché gli era sfuggita una vittima. Cioè lui certo aveva pensato di sedurla, ma col tempo le tre sorelle erano sempre lì, intanto doveva tenere a bada Mary, doveva tenere a bada Claire, che erano tutte e due gelose come gatte. E quindi si è lasciato scappare la più giovane. Non si dà pace. Lui piangerà veramente Fanny, perché aveva mancato di sedurre la terza sorella Godwin, e ormai era troppo tardi. E quindi morta poi, come sempre, diventa la sua donna ideale. E poi si piange, sto civettone, che ipocrita. Dice: quante sofferenze uno può cagionare senza volerlo o senza saperlo, oltre a quelle volontarie, pensa un po'. E poi sapeva benissimo. E comunque lei muore. E poi, intanto, la moglie, Harriet numero 2, ha già avuto il secondo bambino. Lui se ne è vantato con gli amici perché ha avuto un maschio, ma praticamente non lo conosce neanche questo bambino. E allora un giorno, come Ofelia, Harriet a 17 anni e qualcosa si butta nel fiume e muore annegata, e lascia una lettera straziante dove si raccomanda soltanto al marito di non togliere i due bambini alla sorella, sua sorella, che se l'è presi, perché non vuole che viva con questo incosciente, il quale morta lei come fosse morto il gatto. A lui importa di Fanny, perché non l'aveva ancora sedotta, ma questo ormai l'aveva proprio stufato, aveva avuto due figli con lui, era già innamorata pazza, che se ne faceva di Harriet. In fondo ha fatto bene a levarsi dei piedi in qualche modo. La lettera finisce rivolgendosi allo Shelley: possa tu godere quella felicità di cui mi hai privata, e Dio ti benedica. È l'ultima prece della sventurata. Qui il Renzulli prorompe nella sua ammirazione. Che elevatezza di sentimenti, quanta bontà d'animo, spirito di sacrificio, di abnegazione, che accorato dolore nelle ultime parole di Harriet. In verità, lei muore annegata. E io credo che lanci una maledizione molto potente al marito, dicendogli: goditi la vita, che non tarderà ad avere effetto. Oh, ho detto che lui è stato indifferente alla morte di Harriet, numero 2, ma è qualcosa di molto peggio, c'è qualcosa di molto più losco. La memoria di questa piccola martire di un vanitoso viene infangata. Shelley, per salvarsi davanti ai biografi, anche davanti ai contemporanei, dirà che lei aveva un amante, che lei era incinta di questo amante e che si è buttata nel fiume per il rimorso. Addirittura si lagna, fa la vittima. Dice: queste due creature mie, cioè i due bambini che sono nati dal loro matrimonio, questi bambini che lui praticamente neanche li conosce, però dice: come posso pensare che la loro mamma... E lui si faceva tutte, però se la moglie fosse andata con un'altra, parte che non era vero, era una schifosa adultera. E qui la cosa grave: Mary, che sa tutto, che vede anche questa sua bassezza terribile, vede il cinismo idiota con cui lui aggredisce la morta, invece di andarsene, cosa fa Mary? Se lo sposa. E la descrizione del Renzulli, che è molto bella, di questo matrimonio tristissimo, di questo matrimonio tombale. E poi ripartono per l'Europa. Il famoso terzetto, Percy Bysshe, cioè Shelley, sua moglie Mary e Claire, che adesso le corna sono anche più piacevoli perché ormai è sposato con Mary. Dopo di allora ci saranno, in Svizzera, in Italia, ci saranno ancora Jane, Sofia, Emilia, e lui coinvolgerà Claire e Mary che sono diventate le sue ruffiane in pianta stabile, e Mary, complice serva degli amori del marito, che nel suo poemetto Epipsichidion, tutti questi titoli tutti accattivanti, no? Ne fa oggetto di freddezza e di noia, la chiama la casta e fredda luna. Casta perché lui non la tocca, lo credo bene che è casta, e fredda perché lui non si ricorda neanche che esista. Sempre la stessa storia, l'idealizza, poi si stufa e le butta via un'altra unità per fare soffrire tutte le altre insieme, e come sempre li corteggia leggendo poesie di Byron, in questo devo dire prudente e saggio, perché le sue fanno dormire, quindi giustamente si serve delle poesie dell'amico. Ma ecco, l'elemento più importante, la chiave della sua carriera di seduttore seriale è Lord Byron, il bellissimo, l'insuperabile, il vero poeta, il vero avventuroso. Shelley non fa in tempo a sedurre una donna che è appena sceso dal letto, inforca le pantofole e si avventa su Penne Calamaio e corre a dirlo a Byron. Come un signore di cui abbiamo parlato, il generale Tranquilli, che alle feste si metteva vicino alla porta e ogni donna che entrava diceva: io quella me l'ho fregata. E esattamente il grande poeta romantico Shelley era uguale. Che la fa fare quella strage di fanciulle se poi non lo racconta Byron, che è il suo modello, il suo rovello, e lui non è che la sua imitazione, e la sua ridicola imitazione, e la sua ombra. E poi non solo, vigliaccamente lo prega pure che non dica nulla a Mary. Lui, suo malgrado, Byron è furibondo, suo malgrado è diventato il leporello di Shelley, che vale infinitamente meno di lui. Lui non vuole essere il leporello di Shelley, è il depositario del catalogo. Poi, alla fine, c'è l'ultimo amore con Jane, moglie del signor Williams, seduce entrambi, sia moglie che marito, leggendo anche lì le poesie di Byron, e un giorno se ne va in barca sul Mar Tirreno con il signor Williams, che lui sta facendo becco con la moglie. Vanno in barca, viene una grande tempesta, la barca viene distrutta e il poeta muore. Come muore? Non si sa. Un fatto è certo, che mentre Byron era un appassionato marinaio e sapeva tutto, sapeva governare non solo una barca, all'occorrenza anche una nave, con un po' di equipaggio ovviamente, e sapeva nuotare divinamente, è famosa l'eccellenza atletica di Byron, nonostante la gamba più corta. Invece Shelley, nella sua svagata presunzione, andava sempre in barca e non sapeva né governare una barca né nuotare. Quindi non sappiamo com'è andata. Io penso la maledizione di Harriet. Qualche anno dopo la morte di Harriet, la sua carriera viene troncata, la sua carriera di seduttore. Tante donne così furono salve, più che dal suo fascino, dalla propria demenza. Dopo la catastrofe, Mary e Jane, cioè Mary la moglie e la sua ultima amante, vissero insieme per qualche tempo consolandosi a vicenda. Però poi un giorno c'è una guerra tra vedove, perché un giorno Jane commise l'imprudenza, cioè io credo l'enorme malignità, di rilevare che Ariel, come si faceva chiamare lui, durante gli ultimi 3 mesi della sua vita aveva amato soltanto lei, e purtroppo di un amore non platonico, cioè racconta tutto. Mary fa una di quelle scenate che un'altra volta corrono i poliziotti, e così in questa lite da basso napoletano, da pollaio, da commedia partenopea, con un volo di piume finisce questa storia tragica e farzesca. Mary diverrà una scrittrice famosa, avrà 30 anni da vivere, è la scrittrice più cinematografata del mondo, e Shelley è un pomposo, dimenticato poeta, vuoto e tedioso. La guardiana del faro. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, come faccio a convincere la mia ragazza che non la tradisco con tutte? È accaduto solo una volta, e da allora sono un criminale in libertà vigilata. Lei crede che io voglia sposarla solo per farle le corna. Controlla tutto quello che faccio, in maniera anche imbarazzante e ossessiva. E appena oso discolparmi di colpe mai commesse, mi ricorda quella volta. Ma si può andare avanti così? Non le basta che stiamo appiccicati, è gelosa anche degli sguardi. Beh, soprattutto degli sguardi. Se è geloso o non è geloso degli sguardi, ma che geloso è? Perché nello sguardo si consumano tutti i tradimenti più beffardi, quelli impuniti. Chi non sopporta la tortura di questa gelosia, uccida l'amato. Farà prima. Solo la sua morte può guarirci, anche se non è detto, perché poi nel geloso di razza restano sempre i ricordi con i quali può torturarsi fino alla fine dei suoi giorni. Io credo che il più bel regalo alla tua gelosa gliel'ha già fatto, tradendola una volta. Eccola che impugna il pretesto per sempre. Ecco che questo delirio è giustificato a priori, e lo è, credimi, non dalle sue troppo materiali prove, ma dall'essenza volatile dell'amore. I sentimenti prendono ogni forma come le nuvole. Chi può fidarsi del respiro, che libero va come lo sguardo, come la voce? Chi si dice fedele offende l'amore. L'unica fedeltà è sentire ciò che sente l'altro. Il resto sono convenzioni legali, imbruttimenti, sgomento troppo grande perché non si cerchi di ammanettarlo in regole e confini. Amo te perché ci sei solo tu nel mondo e il resto mi fa schifo. Questo è vero, ed è vero un istante, è vero un istante che può diventare eterno se ci si spoglia di ogni diritto. Ma poi chi mai si spoglia? Ma nemmeno i santi. Nemmeno i santi che trasformano l'incapacità d'amore in eccesso e si danno a Dio, come se l'amore fosse possibile soltanto con l'assente. Nessuno si spoglia di nessun diritto. Dire a uno è geloso è come dire è uomo. E fra 100 uomini avrei 100 gelosie diverse. C'è la malattia dell'avarizia o quella dell'immaginazione. C'è una gelosia che ci piace e una che ci insulta. Se guardiamo un altro, il tremito dell'amante che se ne accorge ci commuove. Però l'investigazione ci secca. La seconda volta che ce lo fa osservare già ci secca. C'è la gelosia del futuro e quella del passato. C'è l'odio per qualsiasi forma di felicità l'amato conosca fuori di noi. E starebbe a lui, cioè a te, non renderci gelosi, farci sentire che dovunque sia ci porta con sé, ci porta nel suo petto. Oh, chi ti parla è un'ex gelosa. Quanto ho tormentato il mio più caro amante. E poi, per aggirare l'ostacolo, con furbizia volpina, mi sono innamorata di un omosessuale. Perché, escluso a priori, questo paradosso sconfinava nell'adorazione di qualsiasi oggetto del suo amore. E poi si rivelò un futile trucco, anche quello, perché intanto ero gelosa delle donne. Non ero gelosa dei maschi, ma ero gelosissima delle donne. Non c'è niente da fare, caro amico. Qualsiasi cosa io possa scrivere o tu fare, starete lì a consumarvi con la gelosia. Ne farete un motivo eterno di movimento. Peccato che tu lo abbia già fatto. Per migliorare l'inguaribile male ci sarebbe un rimedio di sicura efficacia, tradirla subito e dirglielo. E osservare come di colpo si calma il geloso, che è forsennato prima di sapere, ma appena sa si acqueta. La certezza lo acqueta, lo fa mansueto, diventa quasi obbediente, quasi schiavo, come l'offerta gettata in bocca a Cerbero, il cane dell'inferno. Il tradimento vero calma il pazzo. Tu hai già consumato questa carta. Avresti dovuto osservarla per i tempi difficili, quelli presenti. Ciao, sono una ragazza di 17 anni e sto con un ragazzo dolcissimo, che ha 2 anni più di me. Con lui ho un rapporto molto bello perché, tra l'altro, so di poter contare su di lui e poi ho molta confidenza. Abbiamo rapporti sessuali completi da parecchi mesi, ma io non riesco mai a raggiungere l'orgasmo se non con i preliminari. Quali credi siano le cause? E cosa possiamo fare per superare questo problema? Ma la causa prima io credo che sia nella natura. È davvero improba l'impresa. Fatti come siamo fatti, di godere insieme, uomo e donna. Non è facile. Tra le sviste di Dio, nella creazione, c'è l'intesa sessuale fra uomo e donna. Un meccanismo molto, ma molto difettoso. Sembrano fatti per non intendersi. L'orgasmo maschile è impaziente, quello femminile è lento. Non sembrano fatti l'uno per l'altro. C'è la tenutaria del bordello nel libro Donna di Piacere che ho citato più volte, un mio libro, che dice a una ragazza della casa: ricordati che il sesso maschile, ovviamente lei dice un'altra parola, non è fatto per far godere, è fatto solo per godere. Gli orgasmi naturali, tra virgolette, sono rari più di ogni cosa al mondo, sono la cosa più diversa e inaudita che ci sia nel sesso eterosessuale. Possibile, ma difficile. Il modo migliore per tentare di raggiungerlo, questo orgasmo femminile, questa delicata araba fenice sempre in fuga, è ingannarlo. Pensarci un po' meno. Non farne il problema. Perché se il sesso comincia già come un problema, si va poco lontani e diventerà un problema al cubo. Il sesso è abbandono. L'orgasmo è compiutezza, confidenza soprattutto. Informarsi in giro del come si fa non risolve niente. Fare l'amore non è un lavoro. È un abbandono dell'essere, è come prendere il latte dalla madre. Credo anche che la difficoltà del piacere femminile sia una delle radici del rancore tra uomini e donne. E adesso finiamo con un sonetto di Marco Fabio Apolloni, tratto dal suo libro Il puttaniere arcadico, pubblicato da Ponte alle Grazie. Dove vanno i baci dopo morti? Forse all'ombra di qualche cimitero, un lume di memoria fa da cero, col nome e con la data so sepolti. Oppure so cadaveri contorti, tutti buttati giù nel fosso nero, tutti una pappa, tutti che davvero non li conosci più se la rivorti. Povere lingue in bocca trapassate, siete contente poi d'aver vissuto? Vi ricordate più chi va succhiate? La vita ci durò solo un minuto, però fummo felici d'essere nate e mo' d'essere impiante da un cornuto. Qui capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.